ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Benvenuti a Dedicato. Oggi puntata speciale, abbiamo come ospite Alessio Boni, è venuto nella nostra città con un suo spettacolo teatrale, L'Iliade, veramente molto bello, di cui ci parlerà. Quindi sono andata a intervistarlo nel suo camerino prima che andasse in scena e mi fa veramente piacere avere un amico di palcoscenico, ma non solo, come Alessio, tra i nostri ospiti di Dedicato, perché con lui ho passato ore a parlare e ci siamo veramente raccontati momenti di vita, di approccio al mestiere dell'attore e al palcoscenico molto molto interessanti. Alessio gioca con le parole in maniera eccezionale, quindi ascoltarlo per me è sempre un grande piacere. Mando adesso questa intervista che abbiamo fatto qualche giorno fa appunto qui a Bologna prima del suo spettacolo. Siamo qui oggi con Alessio Boni, che è con noi nel camerino del Teatro Duse di Bologna perché sta per presentare L'Iliade, quindi è la sua seconda replica a Bologna e insomma qui con noi in città, e visto che io lo conosco da parecchi anni perché abbiamo lavorato assieme, ma potrei dire che è anche un amico, mi fa molto piacere. E quindi ciao Alessio. Ciao Erika, ciao a tutti. Allora sì, siamo qui nel nostro camerino del Duse di Bologna, che sono sempre di una calorosità spaventosa. Io credo che l'Emilia Romagna sia proprio la mia regione, teatralmente parlando. Non parlo solo di Bologna, perché Bologna io l'adoro, eccetera, c'ho anche tanti amici, a parte appunto Erika, ma poi Bonaga, poi ce ne sono tanti altri. Ma se dovessi andare anche a citarti Ferrara, Carpi, davvero Ravenna, io mi sento veramente accolto teatralmente, c'è proprio un bel pubblico con le antenne belle alzate, quindi grazie a voi io torno sempre molto più volentieri. L'unica cosa, l'unica pecca che avete qua a Bologna è che si mangia male, però vabbè questo lo sopportiamo. Allora, abbiamo messo su questa follia, Elia del gioco degli dèi, perché ci sembrava che ci fosse un'assonanza già 4 anni fa, prima ancora che succedesse tutto quello che è successo. Se ci pensiamo bene, l'Iliade parla degli ultimi 51 giorni della guerra di Troia, che è durata 10 anni, si esce dalla peste, si entra nella guerra delle guerre, tra gli Achei e i Troiani, figurati, e chi trama le fila di tutti questi eroi, Achille, Patroclo, Ettore, eccetera, sono questi appunto divinità, gli dei capricciosi, che si divertono a parteggiare per gli Achei, per i Troiani, fanno di tutto, anche cose sleali pur di divertirsi. Un game 3.0 lo chiamerei questo nostro spettacolo, game da parte di queste divinità. Zeus si riunisce, fa una riunione nel 2023, oggi, potrebbe essere anche sulle spiagge della Riviera Romagnola. Riunisce questi dei, queste divinità, perché? Perché sono in disuso, non sono più su un piedistallo di cristallo, nessuno li cita più. Sì, a volte vedi Nettuno sulle scatolette di tonno, quindi voglio dire un po' veramente massacrati questi dei, quando invece una volta, 3500 anni fa, e non è uno scherzo perché questa è verità, non si permettevano neanche di prendere in mano la barca se non facevano un vaticinio con un sacerdote o con un indovino che gli dicesse di poter partire e varcare il mare, oppure andare in guerra contro un'altra nazione, oppure di sposare un'altra persona piuttosto che quell'altra, oppure se questo re poteva andare bene per un rapporto economico. Insomma, era tutta una domanda di, infatti era il politeismo, ce n'erano tantissimi: il dio del mare, il dio del sole, il dio della poesia, la dea della bellezza, la dea Atena della guerra, e Ares, cioè voglio dire tantissimi. È arrivato il monoteismo, sono stati bistrattati e questi si sentono in disuso, però sono eterni, ci sono sempre. E quindi viene detta questa riunione, non vi svelo il segreto, rivangano l'Iliade di Omero, ricordando i bei tempi passati, e poi ci sarà un finale con la sua con un messaggio ben preciso. Ed è incredibile come niente è cambiato, perché se ci pensiamo bene, noi usciamo da un lockdown, siamo entrati non in una guerra, in più guerre purtroppo, e invece di esserci delle divinità che tirano i fili di queste marionette, chiamiamoli eroi purtroppo, chiamiamoli soldati, chiamiamoli... non so come chiamarli, questi avatar strani con queste tute mimetiche spaziali, e questi vengono praticamente controllati e dettati da, sì, da altre divinità che vengono chiamati oligarchi o potenti, io la chiamo insolenza del potere. Quindi prendiamo un po' in giro questo potere, ma l'essenza della guerra, l'essenza del fratricidio, l'essenza del sangue che scorre è la stessa medesima. Certo, cambia la modalità, adesso si schiaccia un bottone, e allora invece con grande coraggio avevano gli scudi, il gladio, la feretra, l'arco, la freccia e la lancia. Questo è cambiato tantissimo, ma l'essenza è là. La ferocia che abbiamo noi nel quotidiano appartiene a questi signori che 3.500 anni fa, 4.000 anni fa, per possedere qualcosa, per potersi ampliare, utilizzavano solo la violenza. Era il loro modo per conoscere proprio la possibilità di conquista. Non c'era altro modo, non c'era diplomazia, non c'era nulla di tutto ciò. È arrivato poi dopo. Era una mente bicamerale che sentivano delle voci, le chiamavano divinità dentro il loro cervello, e a seconda di come il sacerdote ti rispondeva tu agivi, punto e stop, senza raziocinio. Invece poi arriva 800 anni prima di Cristo, questo si chiama, che si chiama Omero, un poeta strepitoso. Tutte queste leggende, queste oralità che ha raggruppato, le mette insieme su una pergamena e gli dà i posteri. A noi è arrivata l'Iliade, l'Odissea, pian piano sappiamo che arriva la tragedia greca e tutto quanto. Si parte da una specie di capostipite della letteratura occidentale che ci riguarda in continuazione, compresa la pace che anelliamo in continuazione, ma la maggior parte delle volte la pace è solo un business politico, non una ricerca vera dell'essenza di noi stessi. Il messaggio che lancia questo grandioso testo in continuazione è che l'identità dell'essere umano non è una dote, non è un talento, non nasce con noi. L'identità la forgiamo attraverso la società, attraverso gli altri. Uno che cresce professionalmente, che viene acclamato e applaudito dal pubblico e anche economicamente remunerato, gioisce di tutto quello che fa, o un bambino che a 3, 4, 5 anni viene detto dalla maestra bravo, dalla mamma bravo, dal nonno bravo, dagli zii bravi, dai compagni bravo, crescerà con un'identità più forte, si sente completamente partecipe nei confronti della società, la società lo ha accolto, quindi si sente bene. Ecco, l'identità è una forma esteriore a tutto ciò che uno possiede dentro. Ecco, poi dopo uno deve fare i conti col proprio io, il proprio sé. Freud diceva che c'era il superio, che appunto è il confronto con la società, con gli altri, poi l'io, il nostro sé. Ecco, questo è il nostro specchio, questo è il nostro spettacolo, questo è il nostro domandarci dove siamo, perché? Perché arrivano queste guerre? Poi noi cerchiamo sempre un nemico per poter avere un escamotage, per poter dire guerra santa, guerra di confine, guerra di... Ma siamo noi, alla fine, siamo tutti noi, che non riusciamo a comprendere o ad abbracciare una cultura diversa, ad entrare dentro empaticamente a una persona che è completamente lontana da te, la pensa in modo diverso, e quindi abbiamo sempre questo io maledetto che abbiamo ultimamente, io addosso, iPad, iPhone, io, che ci invade narcisisticamente, pensiamo di saperne più di tutti gli altri. Se gli altri non la vedono come te, non è che dici, ah, c'è una persona che la pensa diversamente, la maggior parte delle persone dice, ah, lei non la pensa come me, allora sei contro di me. Sbagliatissimo. Questo è un po' tutto ciò che abbiamo rilevato, e poi c'è ancora tantissima altra roba, potrei stare qui a parlare delle ore. Ricordiamo che se dovessimo mettere in scena per filo e per segno l'Iliade per intero sarebbero 42 ore, quindi figuratevi, noi la facciamo in un'ora e mezza. È un sunto per far invogliare la gente ad andare a rileggerlo, ecco, una sorta di fiabone per gli adulti. Abbiamo fatto abbiamo preso questa licenza poetica per portare dentro anche un po' di ironia, far sorridere, ridere anche la gente di questa famiglia pazza, assurda, di divinità che si scannano tra di loro, che potrebbe essere una qualsiasi famiglia di oggi. E poi dopo le parole meravigliose di Omero tradotte, abbiamo miscelato più traduttori, da Quasimodo a Lacciani, a Paduano, a Monti, ovviamente il famoso Monti che abbiamo letto tutti noi sui banchi di scuola, e questo è un fiume che ci trasporta fino al finale con voi. Ma questa è una sorta di veramente di terapia di gruppo, perché a seconda di come voi reagite anche noi reagiamo. È molto molto delicato, è molto emozionante a volte, tocchiamo proprio delle corde che ancora noi ci sorprendiamo tutte le volte perché ci appartengono. Meraviglia veramente ascoltarti, perché era un po' di anni che non ti sentivo parlare così a fiume, no? Che non c'era un dialogo tra di noi. È sempre una meraviglia, anche perché quello che spieghi dell'Iliade, come dicevi tu, non è l'Iliade ma è la vita di oggi, è tutto quello che ci circonda, è tutto il nostro noi, e tu lo porti in scena con meraviglia. Quindi intanto grazie per questa spiegazione, perché non hai toccato solo il tuo spettacolo ma ci hai riportato un po' alla realtà, no? A quello che tutti i giorni viviamo, parlando purtroppo di quelle cose che ci circondano, come la guerra, come un po' l'arroganza. Con Paul Rogers, Imagine di John Lennon, canzone famosissima, e in effetti già John Lennon a suo tempo diceva un po' quello che dicevamo prima con Alessio, come l'essere umano potrebbe essere più inclusivo e rendere questa vita più accessibile e gioiosa per tutti, cosa che purtroppo fin dai tempi dell'Iliade non è così. Ci proviamo quotidianamente. Siamo ancora qui con Alessio Sempre nel camerino del Teatro Duse stiamo appunto registrando questa fantastica puntata con Alessio Boni. Io vorrei fargli un'ultima domanda. Volevo chiederti, se un giovane oggi avesse voglia di approcciare, come in tanti poi mi sento intorno a me, al mondo del teatro, quindi fare questo tipo di mestiere, non il gioco del teatro ma il mestiere dell'attore, hai un consiglio per questi giovani, visto che la nostra trasmissione è tanto dedicata a loro? Allora, intanto in bocca al lupo, e tanta fortuna, perché ce ne abbiamo sempre bisogno, in ogni professione, ma soprattutto a quello dell'attore. Per chi ha la vera passione non devo dire nulla, perché la senti dentro di te. Non puoi fare altro, ce l'hai da dentro da sempre, parli di quella materia, parli di sentimenti umani, non riesci a far altro che sviscerarli, cercare di interagire con un tuo compagno, lo fai anche ai banchi di scuola, provi anche nel garage di casa e non puoi fare altro. A queste persone so già che la loro strada se la trovano e non c'è bisogno di fare granché, perché beccheranno una scuola, li troveranno, li prenderanno, troveranno il talento, sentiranno la passione che hanno e quindi saranno coinvolti automaticamente in questa ruota, in questo treno. Per le altre persone che sono un po' più titubanti, che non sanno, vorrebbero provare, dire ma dai, tanto ci provo, poi vediamo, ma dai, come ecco, sappiate che non è come un influencer, sappiate che non è come un tentativo tanto per fare, qui bisogna mettersi in gioco. Mettersi in gioco seriamente vuol dire, tanto avete la possibilità oggi, non fatevi prendere veramente in giro da certe scuole che si fanno pagare a fior di euro per dirvi che vi danno un diploma, che vi faranno lavorare, eccetera. Diffidate da queste scuole, ci sono 7, 8, 10, anche più, 20, 30 scuole nazionali da cui si dovrebbe partire, poi dopo si può anche decidere di fare altre scuole e sono molto fruibili a tutti quanti, cioè davvero c'è la Paolo Grassi di Milano, come il Piccolo di Milano, la scuola di Ronconi a Torino, la scuola di Sciaccaluga molto buona a Genova, la scuola ovviamente, l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico a Roma, il Centro Sperimentale a Roma, c'è la scuola della Pergola a Firenze, quindi andate, prendete il bando di concorso, questo è il gran consiglio che vi faccio, che vi chiedo, e a tutte 7, 8, 10 queste grandi importanti scuole nazionali che hanno veramente un riconoscimento nazionale, riconosciute dallo Stato eccetera, provate, non abbiate paura, tanto vi chiederanno sempre un monologo, una poesia e un dialogo, provate, fate il tentativo delle 7-8, non vi prendono tutte 8, cominciamo a farci dei problemi, a farci dei pensieri, vi prendono in due, decidete dove andare. Questo è quello che vi consiglio tanto, quel dialogo che preparerete con un bravo insegnante che vi può aiutare eccetera a prepararlo, quel monologo che preparerete con un bravo insegnante eccetera, servirà per tutte e 7. Questo è il tentativo che io farei per primo, in primis, se io avessi un figlio che vuole fare questo direi prova con questo, poi ti prende la recitazione teatrale, non abbiate paura, se fai teatro poi puoi passare dal cinema tranquillamente, vedi Tony Servillo, vedi Pierfrancesco Fabino, posso fare dei nomi, vedi Giancarlo Giannini, vedi Gian Maria Volonté, vedi Vittorio Gassman, vedi la signora Anna Magnani, la signora Melato, dal teatro al cinema si può passare tranquillamente, non è una roba in cui dici oddio la recitazione è diversa, no, togliere non ci vuole nulla, se ti dicono togli un po' mentre sei davanti alla macchina da presa non c'è bisogno di niente, in 3 secondi lo fai, quindi questo è il consiglio, prendela seriamente se avete voglia di farlo eccetera, e dovete sapere che dovete essere pronti ad essere insonni, ad avere anche la tachicardia prima della prima, in continuazione, anche a 60 anni, e che ogni volta maledirete questo mestiere, tutte le volte che ci sarà il sipario dietro alla vostra prima, perché avreste voluto 10-15 giorni in più di prove, perché non vi sentirete mai, mai, mai pronti. Però è la vita, è l'essenza dell'attore ed è ciò che sprigiona dentro un mondo meraviglioso, immaginifico, di gioco e di fantasia e di profondità che raramente trovo in altre professioni. Quindi dateci dentro, non mollate e credeteci. Non è stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino quasi a renderla un po' sdrucita. Dita, io ti vedo, tu così purissima, da non sapere il modo, l'arte di difendermi. E così ho vissuto, quasi rotolandomi, per non dover ammettere d'aver perduto. Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite, e così cancella tutto, e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli, con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare. Io ti credo, dopo che ho guardato a lungo, adesso io mi siedo. Non ci sono rivincite, né dubbi né incertezze, ora il fondo è limpido, ora ascolto immobile le tue carezze. Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza si cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli, con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare. Gianni Morandi e Lucio Dalla, un pezzo bolognesissimo direi. Bene, quindi grazie ad Alessio Boni, grazie davvero di essere stato con noi, per i tuoi consigli, per i tuoi racconti, per le tue parole che veramente aprono sempre mille pensieri. Adesso mi passerò le prossime giornate a ragionare su quello che ci hai detto sull'Iliade, e quindi grazie di essere stato con noi. Speriamo di risentirti entro fine 2024, così ci racconti qualcos'altro dei tuoi progetti. Grazie a tutti quanti voi, sì, vi attendo, solamente vi dico solo questo, che è una cosa storica interessante, che il 29, il 30 e il 31 di gennaio andrà su Rai 1 La Lunga Notte, del momento in cui Dino Grandi destituisce Mussolini, un pezzo di storia, 25 luglio del 43. È interessante perché non la spiegano mai a scuola, e questo è il servizio pubblico, quindi Rai. Ciao, in bocca al lupo! Viva il lupo, come si dice oggi! Ciao Alessio, noi ci risentiamo invece settimana prossima, sempre mercoledì, sempre alle 13, sulle frequenze di Radio Città Fujiko con Dedicato. Ho sballato ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me.